Allora, buonasera a tutte e tutti e benvenute e benvenuti a questa serata. Una serata importante perché ogni tanto ci fa piacere sentire degli esempi positivi, visto che insomma il mondo sappiamo come sta andando. È bello anche sentire appunto degli esempi, come dicevo prima, positivi. E abbiamo qui Carlo Sansonetti, che con la sua associazione, poi ce ne parlerà, che si chiama Sulla Strada, è riuscito a costruire una scuola in Guatemala, laddove ha trovato solamente miseria, disuguaglianze e soprattutto il lavoro minorile. Poi entrerà appunto Carlo nel vivo. Ha raccontato la sua esperienza nel libro Perciò, che alcuni di voi ho visto che hanno già acquistato. Se avete piacere di acquistarlo, sostenete anche l'associazione. Quindi ringrazio Carlo che ci racconterà tutta la sua esperienza e in particolare, come vi dicevo, questo specifico progetto, e ringrazio Claudio Cantisani, un insegnante che questa sera dialogherà con Carlo, e ovviamente la Biblioteca Claudia Augusta che ci ospita per questa serata, e un grazie anche a voi che avete insomma deciso di essere qui ad ascoltarci. Grazie e vi do subito la parola. Buonasera. Grazie di questa presenza, grazie di stare qui. Non siamo molti, ma è importante credere nel poco, credere nel piccolo, credere nel basso, perché l'inganno più grande che noi subiamo da una società costruita self-made man, no? L'uomo che si fa da solo, no? Ci fa pensare sempre dall'alto, questa tecnologia, queste capacità, queste innovazioni che sono veramente straordinarie, però possono diventare degli abbagli, possono diventare degli inganni, perché invece di avvicinarci alla vita ci fanno creare delle nicchie, degli spazi di vita per pochi, da usufruirne per pochi. Ecco, stasera poi con l'aiuto di Claudio parleremo di un percorso, come ce ne sono tanti. Il libro non è autobiografico, per quanto si prenda spunto da alcuni episodi, da alcune situazioni vissute, esperienze vissute, ma dove il mondo dei poveri, cioè il mondo delle maggioranze, si affaccia e parla. Il libro vuole essere la voce di questo mondo che in genere è silenziata, che in genere non è ascoltata. Beh, un attimo il libro, un attimo. All'inizio del libro, no, quando, scusate se non mi ero preparato a quello che avrei detto, quindi adesso la loro storia, di questa gente, si disconosce o la si guarda con sufficienza, perché per noi, figli del consumo, della comunicazione, una storia non raccontata è una storia mai esistita. Infatti, se è vero che è la parola a far permanere nella storia ciò che accade, allora è anche vero che l'unica storia raccontata è quella dei vincitori e dei forti. I poveri, che sono gli eterni perdenti, esistono, ma solo nel presente, senza pretesa di rimanere nel ricordo degli altri. Sono impoveriti anche di questo. I più presenti nella storia sono gli assenti dalla storia. Ecco, questo è un atto d'accusa che è anche uno stimolo per ascoltarli, per frequentarli, crederci e non farlo come da giornalista oppure da studioso, ma da chi fa una scelta verso di loro. Poi casomai lo dico meglio, no? Vediamo un po'. Allora, come prima cosa avevamo pensato con Claudio di... Ecco, vi vorrei presentare un po' uno dei risultati di questo percorso, il più importante, che è quello di un progetto in Guatemala che va avanti da 25 anni. E poi, dopo, quando ci sarà il momento delle domande o degli interventi vostri, potete fare domande anche sul video o altro, no? Però dal video poi ritorneremo a parlare in generale. Guardiamo un attimino questo video. Ovviamente sì, da una parte. E convivere. sarà una giornata faticosa come tutte le prime giornate, perché condita, come spesso succede, da varie cose che non vanno, che non funzionano, e poco a poco però poi si aggiusta tutto. Già abbiamo la sigla di domani e di dopodomani piena con una decina di interventi, perlomeno, però tutto va bene, fatto con entusiasmo, con voglia, va sempre bene. Spero che vi sia piaciuto. Bene, ecco. Bene, allora mi presento, mi chiamo Claudio Cantisani, sono stato, come dire, invitato a questa presentazione che faccio molto, ma molto volentieri. Io ho conosciuto Carlo Sansonetti solo attraverso il libro, poi personalmente ci siamo conosciuti oggi. E un po' anche per il lavoro che faccio, che facevo fino a pochi mesi fa, ho subito un po' un condizionamento nella lettura di questo libro, perché ho notato in primo luogo, tra le varie tantissime questioni che mi hanno particolarmente interessato, anche un'impostazione che vorrei sottolineare e che condiziona un po' anche le mie domande, no? Le domande che vorrei fare a Carlo. E questo aspetto che mi ha particolarmente attirato, innanzitutto, tra le altre cose, è stato il fatto che emerge chiaramente dal racconto che Carlo fa di tutte le esperienze che ha vissuto, proprio la necessità di accompagnare e far precedere, ma anche accompagnare, tutte le iniziative, le attività, tutto l'impegno che lui ha svolto in questo tipo di iniziativa, con una riflessione molto profonda sulle cause, sulle modalità anche di intervento, allo scopo, in sostanza, credo, prima di tutto, di chiarire a se stesso anche, no, le ragioni di un impegno così gravoso, ma anche per trovare effettivamente le vie più opportune per un intervento che, come lui stesso dice più volte nel suo libro, con un intervento che fosse strutturale e non occasionale, contingente, caritatevole. Ecco, anche quando dice che non basta fermarsi in questo tipo di aiuto alla semplice testimonianza, dà lo stesso messaggio, no? Detto in altre parole, cioè bisogna fare qualche cosa di più. E quello che vorrei chiedergli, però proprio agganciandomi a questa mia curiosità, è questo, cioè quali sono le ragioni che ti hanno convinto che intervenire in questo mondo così difficile, così problematico, così sofferente, fosse innanzitutto possibile e poi anche fosse portatore, insomma, di una vera speranza di cambiamento, quando quella condizione che tu hai descritto dal punto di vista sociale, economico e anche umano è così subalterna da rendere gli stessi poveri, come dire, assuefatti a questa condizione, come se fosse un destino ineluttabile e su cui non è possibile intervenire. Cioè, come hai fatto a convincerti tu che fosse possibile fare una rivoluzione lavorando con loro e insieme a loro? Bene, e penso che la vita e il mondo si identificano, perché poi alla fine ciascuno di noi vive il rapporto con il mondo sulla base della propria esperienza, sulla base della propria formazione, sulla base dei luoghi, persone, eccetera, no? Quindi è la vita, io non ce n'ho un'altra di vita, c'ho questa, e non so quanto dura. L'importante è che nel tempo in cui vivo la mia vita, ogni giorno abbia il suo succo, abbia il suo senso, un senso. Ora, la riflessione è che il senso della vita non è mai, non può essere, poi si può ragionare su questo, ma non può essere egoistico o egocentrico, perché altrimenti avremmo fatto un mondo piccolo, il mio piccolo mondo. La famosa frase «prima gli italiani» comporta necessariamente il rischio dell'egoismo. Non può non esserci, perché è un continuo riferimento a me, il mio mondo. E invece, come dicevo all'inizio, il mondo, come dicevi te, insomma, è talmente variegato ed è talmente, come posso dire, urticante in certi momenti, fa male, veramente ti entra dentro come spina, che tu o allora o ti crei una realtà all'atere, una realtà artificiale, e te la crei la realtà come tu vorresti che fosse la realtà. È l'inganno del consumismo. Il consumismo ci fa credere che la realtà è quella che ci hanno costruito intorno a noi, figli dell'Occidente, ma possiamo dire dell'Europa, dell'Italia, ma che esclude necessariamente gli altri. Non è un caso il respingimento continuo. Non è un caso. Perché non si può non respingere chi mette in discussione le posizioni già acquisite, privilegi, comodità, no? Credo che se c'è una crisi della democrazia oggi è perché la democrazia, invece di essere stato luogo, tempo, opportunità di sviluppare la nostra coscienza critica, la nostra responsabilità sociale, è diventato il luogo, il tempo, il modo per acquisire delle comodità, dei privilegi che adesso non vogliamo lasciare e che soprattutto non vogliamo trasmettere, partecipare ad altri. Questo è l'inganno più grande, che ci fa male a noi, fa male a tutti. Invece la democrazia è lo sforzo, è la difficoltà, è la fatica del vivere. La democrazia è fatica di vivere, perché occorre fatica. Un papà e una mamma, qua ce ne sono alcuni, papà e una mamma non fanno fatica a volte a tirare su un bambino, una bambina. È difficile, questa è democrazia, no? E quindi, allora, la domanda tua mi mette davanti, prima che al mondo, a me stesso. Chi sono? Cosa voglio fare? Siccome non sono una monade, non sto appeso da qualche parte, ma sono inserito nel mondo, in questo contesto, oggi ci siete voi, fra poco tornerò a casa mia, poi fra una settimana starò in Guatemala. Quindi io sono in relazione con questo esterno, e questo esterno io oggi dico che no, a me non basta. Io sono innamorato delle montagne, tanto che Claudio mi aveva suggerito qualche passeggiata nelle Dolomiti, però non riesco a farla. Però no, cioè, è veramente importante che per me, che ero amante del mare, amante delle montagne, amante del... sulla strada non è un caso, sulla strada deriva dal fatto che ho conosciuto per 5 anni nella mia vita, ci sono stati, qua ci sono dei racconti, i bambini di strada in America Latina, quindi Brasile, Bolivia, Costa Rica. Però è anche una filosofia, è anche purtroppo un'indole mia, stare un po' sulla strada, di camminare, di andare, di non mi basta quello che ho, insomma, no? Quindi c'è, vado troppo avanti, ecco, mi fermo qua. No, benissimo, però quello che hai detto mi sembra che si ricolleghi anche ad eventi... Quello che hai detto si ricollega ad alcuni eventi che sono accaduti soprattutto all'inizio della tua esperienza, e penso che ci siano dei fatti emblematici che appunto danno poi il via a una riflessione come quella che hai fatto adesso e che probabilmente hai maturato anche nel corso degli anni trascorsi in Guatemala. Ecco, leggevo appunto di quell'episodio che evidentemente ti ha particolarmente colpito, dei bambini che giocavano, apparentemente felici, ma sicuramente lo erano nel gioco, con delle semplici buste di nylon. Possiamo leggerlo? Sì. Elia, puoi venire un attimo? Non so se ce l'hai, ma ce l'ho qua io. Sì, se non sbaglio... Pagina 20. Se non sbaglio è stato quello un episodio... Un episodio, diciamo che c'è la poesia, fondamentale. No? La introduco così. Ok, no, vai, leggi te. E prendi questo qua, tieni. Pagina 20. Qui. Vedevo laggiù. Vedevo laggiù in fondo, mentre avanzavo lentamente con il pick-up sulla strada polverosa che porta dalla Granadilla a San Raimundo, due bambini piccoli piccoli che correvano insieme, venendo nella mia direzione. Lei, una bambina che poteva avere 5 anni o poco più, correva avanti e aveva in mano una busta nera sdrucita e vuota. Una di quelle buste di plastica che si usano per la spesa e poi si buttano via. E lui, un bambino di circa 3 anni, la rincorreva felice. Tutti e due a piedi nudi, soli e felici nell'universo mondo. Però, appena hanno visto la macchina che veniva verso di loro, il gioco si è spento e loro hanno rallentato, evidentemente disturbati dal mio arrivo. Quando sono stato vicino a loro, prima mi hanno guardato di sottecchi, intimoriti, poi al mio sorriso mi hanno salutato in modo sommesso ed educato. E infine, quando sono andato oltre, li guardavo dallo specchietto, hanno ricominciato a correre contenti, dimentichi subito di me. Correndo avanti e girando vorticosamente il braccio, la bambina faceva volare la busta nera che si gonfiava così di aria. Ed il bambino più piccolo, inseguendola, cercava di acchiappare la busta nera fatta palla, gridando eccitato. Lei correva avanti divertita, guardando ogni tanto verso di lui che rideva di cuore mentre correva e saltava e gridava. Gli occhi di tutti e due erano pieni di luce. La felicità si nasconde nel valore infinito di una piccola busta di plastica nera, usata, sdrucita e vuota, che a migliaia ogni giorno gettiamo via. Ecco, volevo chiederti una cosa che mi ha fatto venire in mente il racconto di questo episodio, e cioè che qualche incontro con i bambini del Guatemala si è rivelato, almeno così al primo momento, parziale insuccesso. Cioè, mi pareva che tu raccontassi che il tuo tentativo di approccio con alcuni bambini si è poi trasformato sostanzialmente in una, come dire, in una delusione, perché questi bambini ti hanno, come dire, ignorato. E a quel punto hai iniziato una riflessione sul fatto che noi del cosiddetto primo mondo abbiamo un modo di approcciarci a quelle realtà che è sbagliato, assolutamente sbagliato. Occorre un approccio diverso. Entrare in questo nuovo mondo, cosa vuol dire? Cioè, come si fa ad approcciare una realtà così diversa da quella a cui siamo abituati? Una delle, diciamo, cose più facili che ci viene adesso... Vedevo Claudia, non mi ricordo come si chiama, che fa le foto. Mi riferisco alle fotografie un attimino, ma non riferendomi naturalmente a te, perché stai facendo il tuo lavoro. Ma una delle cose che noi facciamo quando andiamo nei paesi del terzo mondo è fare tante fotografie. Proprio in maniera volgare, in maniera automatica, in maniera sconsiderata e senza nessun tipo di rispetto. Per noi, quando vediamo un bambino come quelli che vi ho raccontato, o che noi prendiamo, che io col pick-up a volte prendo persone che stanno per strada e hanno i loro bambini, hanno la legna sulla testa o le portano, e poi vengono sul cassone dove ci sono degli italiani, subito viene normale, anche se non li conoscono, gli italiani non li conoscono i bambini, a fare foto. Ed è una cosa per me inaudita, no? Perché mi è capitato anche a me, quindi non sono esente. Però perché? Perché come reagiremmo se un perfetto sconosciuto facesse fotografia iosa a mio figlio o a mia figlia, che ha 3, 4, 5 anni? Che penseremmo? Per noi è normale, perché siamo da quella parte là, colonialismo che c'è sempre nel nostro sangue, questo neocolonialismo che c'è sempre, non c'è niente da fare, ce l'abbiamo. Abbiamo un po' questa cosa qua che dobbiamo un po' decolonizzare il pensiero, decolonizzare i rapporti, decolonizzare le strutture. Bisogna decolonizzare. E invece quando entri e ti immergi in questo mondo e tu ti rendi conto che c'è una ricchezza, che c'è un mondo che tu non conoscevi, tu non sapevi. C'è un altro episodio che qua racconto, il consumismo, dicevo prima. Noi portiamo ancora, ma c'erano due nonni umbri, adesso sono morti, ma ci preparavano i tozzetti umbri, che sono piccoli biscottini molto duri, e ne portavamo due per ogni bambino. E allora si radunavano i bambini intorno a noi, e intorno a me c'erano 20 bambini, io davo uno a uno a ciascuno di loro questo tozzetto umbro. È arrivato al 20esimo, prendo il mio e lo divoro perché sono famelico e goloso, boom, e me lo divoro. Poi guardo il primo bambino, sta ancora rosicchiando la prima parte del suo tozzetto umbro con gli occhi chiusi, con un piccolo rivolo di saliva marroncina che gli scende giù, è felice, contento perché sta assaporando qualcosa che per lui è importantissimo. Per me non lo è, ma ne voglio subito un altro. Quel bambino mi insegna il valore, come dicevo prima, il valore infinito anche di un tozzetto umbro. Mi insegnano. A me impressiona molto quando quello non ero io, il mio fratello Andrea che fa il chirurgo sono queste missioni mediche dove arrivano 40, 50, 60 medici e fanno 15, 20 giorni, un mese anche di missione medica per gente che in genere la salute è proprio un gioco all'otto e basta, cioè non c'è nessuna assistenza medica sociale, non c'è, no? È tutto privato, invece con loro, con noi, diciamo, tutto è gratuito. E allora una delle cose che a noi capita di vedere è che questi medici quando vengono prendono le loro ferie, pagano il loro biglietto, operano gratis e alla fine, quando c'è il resoconto un po' finale, dicono: è molto di più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. Vorrei tornare anche il prossimo anno. Cioè, quel mondo ti acchiappa, ti conquista. Poi dopo torni qui e poi è faticoso ritornare là, perché ti riprende il mondo qui, ti riprende. Quindi è una lotta continua, è un dialogo continuo. E noi, ecco, questo dialogo, cioè questo confronto, è bene averlo, cioè anche una serata come la nostra, come quello che stiamo facendo, che possa servire anche perché noi tutti, anche io, possiamo mantenere vivo questo dialogo, questo confronto con la vita, con me stesso. Perché nel momento in cui mi voglio sedere, nel momento in cui voglio essere, mi basta il consumismo, mi basta avere più che essere, avere tanto invece che essere me stesso. Essere me stesso, non tradirmi, non tradire l'uomo, non tradire gli altri. Essere me stesso, è difficile essere, è molto più facile avere. Allora l'accumulo. Il capitalismo è questo, questa ossessione dell'accumulo, è un'ossessione, è un inganno. Come un inganno è la velocità è un inganno, è un mito in cui cadiamo. A me stamattina mi ha impressionato, venendo da Varese, mi hanno detto: guarda, quando passerai da Milano vedrai che ti imbottigli, sarai imbottigliato nel traffico. Sono partito prestissimo, per cui non mi sono imbottigliato. Però andando oltre Milano, dall'altra parte, da Bergamo, verso la gente andava a passo d'uomo. Cioè, e voi mi dite che questi qua, che tutti i giorni vanno a passo d'uomo su quell'autostrada, la 4 si chiama, sull'autostrada, fanno la vita dignitosa, bella? Chi ce lo impone? Il mercato. il mercato. Perlomeno diamoci il beneficio del dubbio, ma stiamo facendo bene? È giusto il tipo di vita che stiamo, perlomeno questo, non dico che dobbiamo buttare tutto all'aria perché noi dobbiamo pure mangiare, no? Per cui il lavoro è il lavoro, però cioè che qualità di vita stiamo facendo? Se siamo dentro una scatola continuamente per 3, 4, 5 ore al giorno, è un po'... Mi sembra che ad un certo punto, quando parli appunto del nostro modo di vita consumistico, dici che ogni nostro bisogno in fondo, o i bisogni che comunque ci creiamo in gran numero, li possiamo soddisfare a spese di altri. Questo mi pare di aver capito anche, no? Perché alla fine la somma è zero, tutto quello che noi abbiamo in più qualcun altro ce l'ha in meno. Per tornare alla questione dell'approccio con questo mondo, allora, in sostanza non si fa turismo tra i poveri, no? Questo mi pareva anche di aver capito. E l'immedesimazione con le vittime è la condizione imprescindibile per un intervento efficace. Sì, per me questo è importante, perché si fa questo. Noi abbiamo avuto la fortuna di una formazione, un'opportunità di formarci, di avere questa coscienza, ecco, formare la coscienza si forma perché uno vuole formarla, non è automatica, uno la vuole formare, quindi la parte spirituale è fondamentale, la parte spirituale, io non voglio identificare, non voglio che si identifichi subito la parte spirituale con la parte religiosa, la parte spirituale è una parte che appartiene a tutti gli esseri umani, non ce n'è uno che è privo di parte spirituale, la parte spirituale va frequentata, va approfondita, va conosciuta, va usata, va vissuta, va proprio irrobustita. È la parte che ci sostiene, che sostiene tutte le altre parti, perché sostiene i rapporti, sostiene il lavoro, sostiene il senso della vita, la parte spirituale, la parte spirituale. E la parte spirituale mi mette in relazione con gli altri, mi mette sempre in relazione con gli altri, con la natura, con Dio. Allora, la natura, c'è un libro di un Leonardo Boff, che è un grande teologo della liberazione, che dice: grido dei poveri, grido della terra. Cioè, la terra oggi è come i poveri, cioè è privata di tutte le risorse che ha per poter vivere. Viene privata, viene completamente saccheggiata. Come si saccheggia una dispensa? Poi si deve comprare, così anche si saccheggia la natura, ma la natura non è infinita, no? Si dice che c'è un giorno in cui finiamo le risorse dell'anno sempre più in qua, no, siamo arrivati a giugno, mi pare maggio, giugno, luglio al massimo, e quindi vuol dire che stiamo andando oltre, stiamo vivendo oltre, quindi se noi viviamo oltre i limiti, qualcuno vive molto sotto i limiti. Esatto. Altri vivono male perché noi possiamo vivere bene. Per poter costruire un milionario occorre costruire centinaia di poveri. E questo tipo di ragionamento non si fa in genere, perché c'è il mito della ricchezza, c'è il mito della proprietà privata. Guai a chi tocca la proprietà privata, come chi tocca gli figli ad alta tensione. Cioè non si mette in discussione il fatto che la ricchezza di per sé può contaminarci a tal punto che ogni rapporto viene inquinato. A volte perdiamo anche i rapporti familiari per ragioni economiche. Allora mi domando, ma è giusto lasciar via, non pensarci mai? E non pensare invece che la ricchezza, tutto quello che è l'eccesso, la proprietà privata, eccetera, non possiamo pensarlo come un pericolo, come un male, come una menzogna? Lo possiamo pensare o no? Ecco, sono riflessioni che uno fa con se stesso e possibilmente poi lo condivida anche con gli altri. Ho cercato di farlo con il libro, soprattutto perché partendo dalla realtà degli ultimi, io non posso non dire che la loro è una sopravvivenza, non è una vita. stanno sopravvivendo. E a una donna gli dico: mamita, comiste oggi? Mammina, hai mangiato oggi? Oggi comì, mañana no sé, però Dios lo sabe. Oggi ho mangiato, domani non so se mangerò, ma Dio lo sa. Questi sono i poveri, i veri poveri, i veri poveri. Il digiuno lo facciamo qualche volta, qualcuno lo fa, anche per ragioni religiose o salutistiche, ma loro il digiuno lo fanno per forza e non sanno se domani lo interromperanno il digiuno, perché non hanno un frigorifero o una dispensa o i soldi per andare a comprare il cibo, non ce l'hanno. Quindi io quella fame non la conosco, non la conosco. Ne posso parlare in teoria, ma non la conosco perché non l'ho sperimentata. Non l'ho sperimentata, io sto qui con voi e posso viaggiare. Lunedì prossimo parto per il Guatemala. Allora, là mi metto un po' in discussione, no? Però devo andare avanti per ragioni di un progetto, ma ne parleremo. Sì, questa idea che la ricchezza ci possa consentire di fare qualsiasi cosa mi ha fatto venire in mente il riferimento che hai fatto a quell'episodio di metà 800 in cui il presidente americano Pierce chiede agli indiani, Seattle mi pare, di poter acquistare le loro terre per poterne poi fare un uso probabilmente di tipo economico. E ovviamente gli indiani, il capo indiano risponde esprimendo la sua visione proprio, no? Del rapporto del loro popolo con la terra, che è una visione che è caratteristica insomma di tutte le popolazioni, diciamo così, indigene, e che non è invece il rapporto che abbiamo noi occidentali con la terra. Il nostro rapporto è di divisione, no? Soggetto-oggetto. Per loro invece c'è un'unione profonda, armonica, che nel libro spieghi molto bene. Ecco, al di là di questo volevo poi dire che come dire, questo nuovo modo che tu descrivi, che ha permesso a te e anche a tanti altri volontari di vedere in un altro, con altri occhi quelle realtà, è un modo che ha a che fare con la spiritualità e se ho capito bene quello che intendi dire, tu lo chiami trascendenza. Cioè la capacità di andare oltre e di vedere oltre una realtà che non è quella a cui siamo assuefatti. È così o ho capito male? No, beh, la trascendenza molto spesso la riferiamo solamente a Dio, no? Trascendenza. La trascendenza secondo me è l'espressione più alta della spiritualità, perché ti fa guardare oltre il momento presente, il luogo presente, sai traguardare, sai andare più in là, cerchi qualcosa di più o di diverso da quello che c'è. La chiamerei speranza, cioè una forza che viene dal futuro ed entra nel presente e ti spinge a realizzarla. Cioè la speranza, io parlo molto di speranza, parlo soprattutto della speranza che la speranza contro o oltre ogni speranza, cioè è una visione delle utopie, dei desideri più profondi degli esseri umani che stanno molto in alto, ma che ci consentono almeno di non fermarci mai. Chi ha questa dimensione del trascendente non si ferma, va avanti, cioè anche se non ha una fede religiosa, ma ha una visione della vita che va al di là di quello che noi viviamo adesso. La tragedia della guerra, la tragedia della povertà, la tragedia delle migrazioni, è una tragedia della terra che ci opprime e a volte ci deprime. Allora dobbiamo saper alzarci un pochettino, no, guardare più in là, guardiamo più in là, e c'è la possibilità. Allora l'utopia non ti permette di fermarti, e l'utopia ti dà una direzione giusta nella vita. Allora, se io credo che il mondo del domani è un mondo più giusto, più fraterno, e cerco di costruirlo, come dicevi te, anche con progetti strutturati, e quindi in modo strutturale. Noi adesso in questi giorni, in questi ultimi tempi, stiamo avendo molti rapporti di collaborazione con il comune di San Raimundo, che è là vicino, e con varie entità private di là, moltissime, per poter creare come una specie di rete intorno a questo mondo dei più poveri, che possa avere l'opportunità di sapere che vale, di sapere che ci sono delle persone che vivono per loro, che sono importanti per noi, no? Ecco, e questo sta dando un ulteriore guizzo al progetto. Sono 25 anni che abbiamo cominciato, ma è quest'anno che noi abbiamo avuto due o tre cose che ci hanno fatto guardare più in là ancora una volta. Per esempio, il primo, tutti i ragazzi guatemaltechi che sono messi a disposizione di questo progetto, sono 5-6, hanno assunto una tale responsabilità che prendono le iniziative e sviluppano dei progetti, che hanno portato addirittura a fare richiesta al Ministero dell'Educazione. Noi abbiamo una scuola, avete visto, no, la scuola, avete vista là, no? Abbiamo questa scuola, abbiamo chiesto al Ministero dell'Educazione che il progetto sia considerato un progetto pilota, e che questa scuola possa diventare, ci abbiamo già idee abbastanza chiare, non tanto una scuola ma un ecosistema educativo. Un ecosistema educativo. Parole dei nostri amici guatemaltechi, che io cerco di portare qui. Cioè, la scuola non è soltanto il luogo dove ci sono maestri, professori e discepoli. Chi sa e chi non sa. Chi ha tanto e chi ha il recipiente vuoto, che bisogna riempirlo. Non è quello. Ma il concetto invece è che il bambino stesso, ogni bambino, viene da un mondo, da un'esperienza, da una sensibilità che mi arricchisce, a me che sono il maestro o professore, se soltanto saprò ascoltarlo. Quindi il bambino può diventare mio maestro, senza nulla sacrificare della responsabilità di dover insegnare quello che so, ma anche come insegnarlo, perché non è soltanto delle nozioni che io do, ma conoscendo i miei alunni, conoscendo il mondo dei miei alunni, cerco di adattare il mio insegnamento alla loro sensibilità, alla loro capacità. Allora, le nozioni che si danno diventano conoscenze che fanno la coscienza, cioè aprono gli occhi, soprattutto se è dialogica la cosa, aprono gli occhi, e allora la scuola diventa la fucina di un mondo nuovo, perché quando si acquisiscono le conoscenze da un punto di vista di coscienza, allora io con quello che ho imparato a scuola riesco a cambiare la mia vita, riesco a capire che posso cambiare il mondo. E stiamo facendo un lavoro grossissimo perché quei bambini possano sviluppare un pensiero critico e possano avere tra di loro un dialogo che gli consenta di fare dei progetti insieme, che i bambini sviluppino dei progetti, che loro fanno a scuola, li fanno e poi li mettono in pratica. Quindi è bello questo. Sì, siamo proprio arrivati al cuore, insomma, del tuo progetto, perché ovviamente i bambini sono i protagonisti. I bambini del Guatemala sono una piccola realtà, no? Nel mondo, se il Guatemala è un paese molto, molto piccolo, e i bambini rappresentano una parte di questo paese, però sono emblematici, appunto, come dicevo, di una situazione molto più generale, e cioè il fenomeno della cosiddetta povertà educativa, di cui si occupa in particolare l'UNICEF, si occupa l'UNESCO, eccetera. Sembra che nel mondo siano almeno, ed è sottostimato questo dato, 300 milioni di bambini che in età scolare sono invece lontani dalla scuola. Il Guatemala La gran parte di questi bambini sono lontani dalla scuola per la povertà, un terzo sembra che lo sia per motivi di guerra, disastri naturali, eccetera. Il Guatemala non è un paese in emergenza, perlomeno ufficialmente. La percentuale più recente che ho trovato di bambini che non frequenta, che non frequentano la scuola è del 40%. Ecco, questo spiega perché nel vostro progetto la scuola è stata individuata proprio come lo strumento principale per l'emancipazione, cioè l'istruzione è ostacolata in primo luogo dalla povertà nel mondo, questo è evidente, però nello stesso tempo la povertà è perpetuata dalla mancanza di istruzione. Sì, io credo che dobbiamo imparare a scandalizzarci, dobbiamo imparare a indignarci, dobbiamo imparare a... E come si impara? Credo che proprio guardando la realtà per quello che è, 40% dei bambini che non hanno istruzione che l'abbandonano dopo poco tempo, è veramente un disastro sociologico. Un disastro. Sociologico. E allora, diciamo così, l'entusiasmo, la passione con cui uno vive queste esperienze è proprio perché deve contrastare quella spinta a dire ma chi me lo fa fare? È troppo grosso, è troppo grande questa cosa. Non so se Elia ci può leggere quella pagina, quell'altra pagina che diceva Paolo, perché quando ci sono delle situazioni limite può suscitare dentro di noi una reazione che può essere positiva. Chi vede? Prova. Aspetta, devi tenere lo spinto. Così va? No? Aspetta. Okay. Così dovrebbe andare, no? Prova questo qua. Mettili qua. Sì. Mettili qua. Mm-hmm. La profonda frattura che divide l'umanità. Chi vede morire, straziato dall'esplosione della polvere da sparo che stava maneggiando un bambino di 10 anni e si angustia e non si dà pace. Chi vede morire bambini sotto un bombardamento deciso a tavolino dalla politica internazionale che immediatamente rimuove dalla coscienza quelle morti definendole effetti collaterali e si ribella con tutte le sue forze. Chi vede morire per fame e inedia persone si trascinano per giorni interi nella savana per cercare un po' di acqua, un po' di cibo, e il suo cuore gli diventa come una prugna secca di fronte a quella agonia lenta e inesorabile. Chi vede morire per repressione violenta di un regime dittatoriale migliaia di persone e si indigna contro lo status quo internazionale. O chi, come dice il vescovo greco Hieronymus, vede gli occhi dei bambini nei campi profughi ed è in grado di riconoscere immediatamente la bancarotta dell'umanità. Solo costoro riescono a sentire nel profondo del cuore che è stato scavato un fosso, una ferita profondissima nell'umanità e non si può più rimandare la sua cura integrale e radicale. Non ci si può fermare a livello di testimonianze personali, per quanto eroiche, ma si deve esigere un cambiamento strutturale sistemico. Da quel momento la loro vita è diversa rispetto a prima. Solo costoro comprendono lo scandalo della croce, non perché sia il figlio di Dio a morire su una croce, ma perché egli stesso rende evidente, con la sua morte solidale, lo scandalo che ad essere inchiodati e uccisi su innumerevoli altre croci sono i più piccoli figli dell'uomo. Solo costoro sentono lancinante e inaccettabile quello scandalo e comprendono che, soltanto stando all'interno di esso, nell'indignazione di fronte a tutto ciò, nascono la forza e il coraggio per immergersi in quelle croci e, perciò, di abbracciare nella solidarietà i poveri che vi sono inchiodati e di fare qualcosa affinché possano scenderne. Soltanto nello scandalo della croce troviamo l'inarrestabile forza dell'amore che sopprimerà le croci. Quando poi lo scandalo della croce è così pervasivo nella realtà umana da diventare strutturale, solo un'utopia, e non certo un pannicello caldo, un buon sentimento, potrà essere alternativa di vita piena ai sistemi che producono croci e morte. Ma ci deve essere un sogno alto e comune da realizzare per testimoniare che esiste l'alternativa a quella dura, triste e ignobile realtà, a quel rosario interminabile di croci. Gli stessi poveri sapranno guardare a quel sogno con piena fiducia, se soltanto ci sarà chi farà cadere una goccia di speranza sulla loro terra brulla. Da quella terra, che è il loro stesso cuore, allora nascerà una preghiera potente. Sì, prima nel video avete visto Victor, quel bambino che poi è morto. Era il mio avvocato, lo chiamavo il mio avvocato, quando mi sa parlare non la smetteva più, vinceva sempre lui. E io c'ho ancora dolore per quella morte, perché mi è morto tra le braccia. Mi è morto tra le braccia, quel giorno stavo là, quella notte, quella sera stavo là. Il papà non aveva pagato la luce elettrica, gliel'avevano tagliata. E Victor, stavano lavorando con la propria spada, con la candela accesa. E lui sbarratamente, così mi ha raccontato poi il fratello, ha toccato la candela, è cascata sulla propria sparo, l'esplosione ha ucciso la madre subito e lui dopo 10 giorni. Però quando sono arrivato da giù, perché era in salita e stavamo con i cellulari appunto illuminando, Armenia si chiamava così la mamma, una donna bellissima, giovane, annerita e denudata dal fuoco, morta, e lui che chiamava Padre Carlo, Padre Carlo, llevami da qui, portami via di qui, mi diceva portami via di qui. Come dire, perché i bambini devono vivere questo tipo di drammi? Non dovremmo essere il futuro dell'umanità? Non dovremmo essere la speranza di questa umanità? Perché devo morire? L'esplosione gli aveva sfasciato tutta la parte posteriore, le natiche, ma anche la parte del suo apparato genitale, era tutto totalmente, così mi hanno detto i dottori, tutto sfracellato. Ecco, sono situazioni talmente pesanti. Quando sono tornato a casa c'avevo il sangue qui e non volevo più lavarmelo. E quello dicevo, no? Che poi non puoi più, non soltanto non più lavartelo, non puoi più levartelo. Ti corre dentro, quel sangue grida dentro di te, quel sangue ti impone di continuare e di non fermarti. E soltanto così, ecco, quando si tocca con mano, quando adesso ieri hanno trovato una barca con 2 bambine di 2 anni morte di sete, morte di sete in una barca, perché non c'è l'attenzione, perché non c'è attenzione, perché la politica non c'ha attenzione, non gliene frega nulla. Nulla, non gliene importa degli esseri umani fuori dal contesto europeo, non gli interessa. Ecco, questi sono le gravi, allora dobbiamo indignarci per poter dare gioia al mondo, dobbiamo indignarci per questa continua croce che il mondo butta addosso ai più poveri, no? Sì, che poi quando parli di privazioni che caratterizzano insomma la vita di questi bambini, non dimentichi di parlare anche di un altro tipo di privazione, no? Più spirituale, diciamo, no? Perché a un certo punto hai scritto che nella povertà il degrado è tale che la lotta per la sopravvivenza impedisce proprio di esperire e trasmettere gesti di tenerezza anche, no? Prima hai parlato di Victor e della sua mamma. Sì. Ecco, anche questo è terribile, cioè il fatto che l'affettività anche tra mamma e figli sia, non dico assente, ma fortemente compromessa dalle condizioni materiali di vita. No, noi abbiamo, proprio quest'anno sta cominciando, è già cominciata la costruzione di una casa, si chiama La meraviglia di un sorriso. I bambini, appunto in questo villaggio, in questi villaggi, come dicevi tu, c'è questa carenza affettiva, ma non perché sono cattive le mamme o i papà, ma perché no. Ecco, la povertà è questo, la povertà è non aver radici, perché non c'è nessuna memoria, non c'è il ricordo mio nonno, mio bisnonno che faceva, no, non c'è nulla. E non c'è neanche la speranza, guardare al futuro. Radici e frutti sono tagliati, c'è il presente, basta, c'è soltanto il presente. E in questo dramma, in questa croce del presente, diciamo che è difficile avere gesti di tenerezza, perché non... Allora, quando è finito il lavoro, il pomeriggio, la sera, tu vedi questi bambini che sembrano un po' lasciati a se stessi, alla loro eccitazione, no? Non hanno rispetto l'uno dell'altro, si spingono, si buttano le pietre. Allora vorremmo dare, abbiamo già detto alle famiglie, se voi ci consentite che i bambini vengano in questa casa, la Maria di un Sorriso, e stiano con noi da lunedì a venerdì, quindi vengono a scuola e poi stanno, i bambini che vengono avranno la possibilità di sperimentare un altro tipo di vita in famiglia, dove c'è il rispetto, dove c'è piccoli incarichi, dove ci sono delle attività, racconti, nenie, canti, ma ordinati, c'è l'armonia, no? E allora quando ci sarà questo, crediamo che nascerà un sorriso nuovo, la meraviglia di un sorriso. Ecco, in questo senso, allora, una come si chiamano, raccolta fondi che stiamo facendo adesso è per poter mantenere, non tanto per costruire, ma per mantenere questa casa. Cioè, per mantenerla significa non la struttura fisica, ma le persone che sono professionisti, devono essere assistenti sociali, devono essere maestre, devono essere psicologhe, devono essere persone che hanno una preparazione professionale e un cuore umano, no? Che conserva. Quindi dobbiamo sostenere questa casa e anche quello che, anche comprando questo libro, si aiuta un po' in questo, no? E anche altro. Ecco, io ti chiedo un'ultima cosa che mi ha incuriosito e che ovviamente non può mancare in questo discorso. Abbiamo parlato delle mamme, no? Nel loro rapporto con i bambini. Anche la condizione femminile ovviamente è terribile in quei contesti, e il vostro progetto pensa anche a questo aspetto, no? Di quella realtà. Ecco, poi a supporto di questa considerazione c'è la constatazione abbastanza ovvia che esiste una correlazione tra lo sfruttamento e la condizione molto difficile da tutti i punti di vista dell'infanzia e la posizione anche dei genitori, cioè degli adulti nel mercato del lavoro. Quindi se ci sono bambini sfruttati, se ci sono bambini poveri, è perché anche il mondo adulto vive una condizione ovviamente analoga. Sì, diciamo che alla base di tutto c'è, secondo me, il rapporto con le donne. Cioè, i maschi hanno creato un mondo maschilista, macista, e le donne non possono mai dire no. Quando abbiamo fatto una delle prime missioni mediche, c'erano le ginecologhe, dovevano fare la pap test, e quando le donne hanno capito quello che doveva essere, non posso, devo chiedere a mio marito se posso. Devo chiedere a mio marito se posso fare questo test. E quando parlavamo di questi figli abbondanti, ma voi, c'è tante possibilità, no? E potete dire di no. Dire di no, e come? Dire di no a mio marito, non si può dire di no. Spesso viene ubriaco a casa, il più delle volte è ubriaco, e quando è ubriaco io non posso dire di no. Ecco, questo no. Allora abbiamo in questo, proprio ancora un altro dei miracoli degli ultimi anni, proprio la Escuela para Madres, la scuola per le mamme, e stanno prendendo coscienza della loro dignità e delle potenzialità che hanno, delle potenzialità che hanno. Quindi anche la coscienza che la cultura è importante, perché a volte le bambine soprattutto si iscrivevano a scuola i primi anni soltanto gli bambini, poi abbiamo fatto tutto un lavoro perché venissero anche le bambine, ma le bambine devono imparare a fare le tortillas, pulire, portare i bambini, bambine di 7 anni che portano sulle loro spalle, bambini di 2, 3, 4 anni se le portano già ai 7 anni, se la portano normalmente. Ecco, le bambine devono fare questa cosa qua, beh, basta. Guardiamo anche che cosa stiamo sacrificando. Io, uno degli episodi è Margherita, una bambina che non era mai venuta a scuola e a un certo punto è passata sanguinante dalla testa, sanguinava dalla testa. Allora abbiamo corso dietro di lei, siamo arrivati dove stava la mamma. Praticamente erano un anno che stava con la cognata, che la teneva praticamente come schiava, faceva avere il suo bambino sulle spalle, il figlio di lei, di questa donna, e lei doveva fare tutti i lavori. E un giorno, questa qua la trattava malissimo, le dava poco da mangiare, un giorno l'ha fatto lavorare più velocemente, il nodo che c'aveva qua si è sciolto, il bambino è cascato, si è messo a piangere, questa donna ha preso il macete e dalla parte, non del figlio, dall'altra parte, gli ha dato in testa alla bambina Margherita e gli ha aperto una ferita e lei è corsa. Praticamente dopo questo episodio l'abbiamo fatta venire a scuola e dopo pochi mesi Margherita ha vinto il secondo premio nel concorso provinciale del disegno sulla non violenza sulla pace. Cioè la bambina violentata fin da bambina esprimeva un concetto di non violenza. La bambina che aveva vissuto tutta la sua vita in bianco e nero aveva fatto un disegno bellissimo con tanti colori. Allora tutte queste potenzialità, queste capacità, questi doni che Margherita aveva, se non fosse venuta a scuola, chi l'avrebbe? Tutti quei bambini che stanno ai semafori, che stanno nelle guerre, che stanno appunto lavorando sui fuochi d'artificio, che lavorano rompendo le pietre, che fanno di tutto, i bambini di strada, ma che ne sanno dei doni che c'hanno dentro di noi? Li abbiamo abbandonati, si abbandonano. Cioè, ecco perché bisogna sostenere quelle scuole anche, no? Perché così si sostengono quei bambini, scoprono chi sono, cosa hanno di dono. E quindi ci sarà un futuro diverso per loro. Ecco, cambiare il mondo è un po' un piccolo impegno di tutti. L'UNICEF, quando parla di quei bambini, parla di futuro rubato. No? Sì. La loro situazione è una situazione di futuro rubato. Sì. Ancora una cosa. Poi lasciamo la spazio. Sì, e appunto sarebbe bene fare qualche altra domanda da parte del pubblico. Il tuo rapporto con la Chiesa ti ha condizionato anche un po' nel tipo di approccio che hai avuto con le varie esperienze, perché non hai avuto solo l'esperienza con i bambini del Guatemala, ma anche esperienze con comunità, per esempio, di tossicodipendenti, mi pare. Ecco, tu interpreti, però mi pare di aver colto come sintesi, insomma, del tuo rapporto proprio con la Chiesa, il limite di un intervento fatto dall'interno dell'istituzione. Tant'è vero che quando c'è stato nella tua vita questo passaggio allo stato sacerdotale, hai percepito immediatamente anche un cambiamento nel rapporto che i ragazzi della comunità avevano con te. Sì. Ecco, qual è questo limite? Forse non tutti sanno, no? Che io, dunque, la storia personale è che sono entrato, quando avevo 30 anni facevo il biologo, sono entrato in una comunità per tossicodipendenti, la cui vita mi affascinava, la comunità, negli anni 80, e ho vissuto tanti anni, 16 anni, e mentre ero là, il prete fondatore mi diceva: guarda che ti vedo come prete, guarda ti vedo come prete, alla fine divento prete. E poi dopo, a un certo punto, il vescovo mi chiama in Italia, perché stavo all'estero, e vivo questa esperienza traumatica per me della parrocchia, non sapevo cos'era una parrocchia, non sapevo cos'era. E il dramma per me della parrocchia era che era una vita burocratica, mi sembrava a me, io parlo della mia esperienza, quindi, o perlomeno molto incentrato sul culto, sul rito, sulle tradizioni, ma alla vita, poco legata alla vita di tutti i giorni, alla vita dei poveri soprattutto, poco legata alla vita. Allora io subito ho parlato dei bambini, e sulla strada il nome dell'associazione ricorda i bambini di strada. Però poi col tempo vedevo che insomma c'era una certa difficoltà per portare avanti l'impegno in Guatemala e contemporaneamente fare il parroco. E soprattutto i rapporti con la gerarchia erano rapporti sempre un po' verticali, quindi anche di una certa soggezione, chi sta più in alto, in quel tempo c'era una certa soggezione. Quindi alla fine ho fatto una scelta di vita, ho detto no, io voglio vivere più liberamente e più pienamente questa vocazione che sento forte, e così sono uscito un po' dalla struttura ecclesiastica. Credo che un po' l'esperienza del Papa Francesco, adesso non so questo Papa Leone, ma Francesco ci ha fatto capire, ci ha avuto dei limiti, ci ha avuto quello che volete, ma perlomeno ha portato qualcosa che mancava, che tutti desideravano: un buonasera, un parlare come tutti parliamo, un interessarsi dei movimenti sociali che sono nel mondo, interessarsi della terra, interessarsi del problema climatico, interessarsi dei poveri, e lo ha fatto. Allora, naturalmente tra questo che fa che dice il Papa e poi tutta la struttura è difficile. Quindi è là che io dico che se una piccola parrocchia ha fatto tutto questo gran casino che avete visto, una piccolissima parrocchia di 1500 abitanti ha fatto tutto questo macello, allora vuol dire che veramente abbiamo delle potenzialità enormi. E perché non le sviluppiamo? Perché non ci stanno? Cioè, le strutture che dovrebbero veramente proporre, costruire questi progetti, non lo fanno. Per me è normalissimo che una parrocchia faccia queste cose, non che faccia soltanto i campi estivi, ma che si occupi anche di queste cose, ci siano delle missioni, dei progetti che siano un pochino più legati alla realtà, insomma, ecco. Certo. Comunque, non so se volete prendere la parola. Fare qualche domanda? Grossi grossi no, però c'è stato un episodio un po' significativo, conflitti di interessi. L'anno scorso, quando stavo in Guatemala, una riunione con i maestri, e un maestro a un certo punto d'improvviso dice: lei deve smettere di criticare così aspramente il lavoro dei bambini su fuochi d'artificio, perché in questo modo mette in discussione l'economia di San Raimondo. Dico: cosa stai dicendo? Poi ho scoperto che era il figlio di uno dei proprietari delle Marche, conflitto di interesse. Cioè, io come faccio a smettere di dire che la scuola è liberazione di questi bambini? Cioè, sarebbe assurdo che non fosse così. Quindi c'è un problema culturale, e poi naturalmente anche un problema di manodopera. Ecco. Però per ora abbiamo talmente coltivato i rapporti, e ci vogliono bene, che per adesso non essere cose grosse, no. Questo piccolo episodio. Se non ricordo male, all'inizio avete dovuto compensare le famiglie. Sì, all'inizio quando dicevamo mandate i figli a scuola, allora dicevamo: se ne mandiamo i figli a scuola noi non mangiamo più, perché anche i bambini con il loro apporto davano una buona entrata economica. Allora noi vi diamo quello che il bambino guadagnerebbe se lavorasse. Era un euro al giorno a quel tempo, quindi si faceva mezza giornata, si faceva mezzo euro, quindi 15 euro al mese. sono 30 euro al mese adesso, e che lo diamo in alimenti. Poi il problema dell'alimentazione enorme, il problema dell'alimentazione, c'è i bambini che mangiavano solamente tortillas, quindi mais e fagioli, e basta, e basta. Cioè questo veramente scandalizza, non c'era l'apporto proteico, quindi non c'era una strutturazione, anche i bambini non apprendevano quello che il maestro insegnava. Ecco, quindi l'apporto dell'alimentazione, eccetera. Cioè la scuola deve essere liberante in tutto. Qualcuno vuol chiedere qualcosa? Paolo? Volevo soltanto accennare una cosa che hai detto quando eravamo a pranzo, che in autunno verrai qui probabilmente con Silvino. Sì. Ecco, e questo qui vorrei comunicarlo a tutti e cercare che ognuno porti almeno una persona. Silvino è uomo del Costa Rica. Sì, è un indigeno della Costa Rica, che vive nella foresta della Costa Rica. E Carlo lo porterà qui in autunno, qui in Italia probabilmente, e credo che sarebbe disposto a venire a Bolzano, però vorrei che ognuno di voi portasse almeno un'altra persona, insomma, non che non venga Silvino a Bolzano per 12 persone. Ecco. Sì. Questa qui è una cosa che mi parrebbe, ne parlavamo, Carlo sarebbe disponibile, sarebbe contento anche a Bolzano, ma ce la facciamo? Silvino è quello che ha scritto, lui non ha scritto, ma la prefazione è la sua. Cioè io gli ho scritto, gli ho mandato un messaggio a lui dicendo: ho finito il libro, guarda, sono molto contento. Lui mi manda un altro audio che dico: talmente bello, l'ho tradotto, l'ho messo là, ho detto: Silvino, permetti che la faccia, ed è la prefazione del libro, è sua, che c'ha la terza elementare, io dovevo farla con padre Alex Zanotelli, sì. perché è un mio amico, e invece l'ho fatta con lui perché mi è sembrato molto più interessante. Importante. Quindi sì. Il post con Alex. L'applicazione con Silvino e il post con. Beh, no, di Alex non ce l'abbiamo, vorrei averlo, sì. Va bene, sì. Beh, io spero che, non so se c'è qualcun altro che voleva dire qualcosa. E provo io a chiederti qualcosa molto semplice: come possiamo contribuire noi, che in sostanza, almeno io credo di non essere l'unico, ad aver aperto gli occhi solo adesso su una realtà di questo genere, non che non la conoscessi, ma adesso posso guardarla anche con uno sguardo diverso, anche grazie appunto alla riflessione che hai proposto tu accompagnando il racconto dei vari episodi. Ecco, com'è possibile da qui contribuire pur senza partecipare attivamente, diciamo così, al vostro lavoro? Intanto frequentare il sito, cioè navigare un po' sul nostro sito, che è sullastrada.org. Dovrei avere dei tantini, vorrei darvi, ma quando ce l'ho, là. E poi ci sono dei progetti che noi portiamo avanti, no? In questo momento c'è questa cosa qua, questo impegno enorme dell'istituto, però che se lo accolla la signora, ma noi dobbiamo sostenere la gestione, l'amministrazione della cosa, quindi occorrono tanti soldi. Io c'era una santa, si chiamava Santa Teresa d'Avila, la quale diceva: io da sola faccio nulla, io e Dio facciamo tantissimo, io, Dio e i soldi facciamo tutto. Allora, questo per dire che quando i soldi non diventano quello che dicevamo prima, no? Cioè una contaminazione, ma diventano invece vita, allora per me è eucaristia, cioè là è vita che si trasmette attraverso la scuola, le medicine, i vestiti, l'alimentazione, è vita. Ecco, quindi bisogna avere fiducia, credere. Io vi ho parlato col cuore in mano, vedete anche il libro, qualcuno potrà venire giù, purtroppo tante cattive testimonianze hanno portato a disillusioni, a delusioni, e quindi uno dice no, chi mi dice che arriverà? Per esempio, no? Ecco, noi diciamo, ecco, c'è la fiducia di chi vi ha parlato, in chi vi ha parlato, e la possibilità di venire quando vorrete, Marianna, quando voi, la porta è aperta, venite giù. E credo che sia un bel progetto, non è l'unico, però se non avete altri, c'è il 5 per 1000 da dare all'Associazione sulla strada, adesso che è il tempo della dichiarazione dei redditi. Se avete già un altro, non cambiate, perché non bisogna svestire un altare per vestire un altro. Quindi, però, siccome il 50% degli italiani non dà una sua opzione nel 5 per 1000, sappiate che noi ci abbiamo, basta prendere il codice fiscale e lo si dà al commercialista, no? Ecco, e niente. In questa maniera io credo che noi abbiamo bisogno, cioè, alla fine non vendiamo scarpe, non abbiamo industrie, eccetera, abbiamo questa possibilità di coinvolgere e di dirvi quello che noi facciamo. Il mondo dei più poveri è un mondo che non finisce mai, purtroppo, e quindi un po' quello che, sì, d'accordo, facciamo vedere queste cose qua, ma poi quando vai giù sono tante le famiglie, tante le situazioni che ancora sono limite, e dobbiamo starci. E ci stiamo. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti. Un abbraccio.